Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Banche, secondo Renzi ci vuole una riforma di tutto il sistema. Si preparano le misure per gli obbligazionisti delle quattro salvate, mentre resta aperto lo scontro con Bruxelles. Legge di stabilità, il governo presenta le modifiche sui giochi. Stop alla pubblicità dalle 7 alle 22 e tassazione più alta sulle cosiddette new slot. Parigi si prepara al ballottaggio di domenica. Il premier francese Valls alza i toni. Se vince il Front National, rischio di guerra civile nel paese. Tangenti per appalti nelle basi dell'aeronautica militare. In manetta anche un dipendente della difesa. Truccava le gare e poi usciva dall'aeroporto nel bagagliaio di un'auto. Mafia, smantellato un clan a Palermo. Nelle intercettazioni e nei video, l'elezione del capo con una votazione e il bacio in fronte al padrino, in segno di rispetto. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono sempre gli stessi, effettogiorno@radio24.it per scriverci, il 349-238-6666, tanto per gli sms quanto per WhatsApp. In apertura, ancora oggi gli aggiornamenti sugli effetti del decreto del 23 novembre con il quale il governo ha dato il via libera al salvataggio di Banca Marche, Banca dell'Etruria e del Lazio, cari Chieti e cari Ferrara. Lo scontro resta alto su due fronti. Il primo è tra l'Italia e l'Europa. Roma sostiene che Bruxelles avrebbe vietato un salvataggio che potesse comprendere anche azionisti e obbligazionisti subordinati. La Commissione replica che non è così. Il secondo fronte di scontro è quello sugli aiuti per coloro che hanno perso tutto il servizio. Un fondo di garanzia per risarcire almeno in parte gli obbligazionisti delle quattro banche salvate dal fallimento è la soluzione alla quale sta lavorando in queste ore il governo, che si appresta a presentarla sotto forma di emendamento alla legge di stabilità, un intervento che dovrà essere in linea con quanto previsto dalle regole europee sugli aiuti di Stato e che punta a tutelare solo i piccoli investitori, clienti ai quali le quattro banche avevano venduto prodotti inadatti, secondo la Commissione europea che attribuisce la responsabilità del salvataggio all'esecutivo. È impossibile salvare tutti, ma daremo una forma di ristoro, ha assicurato il premier Renzi, che stamattina ha insistito anche sulla necessità di una riforma del settore. Riforma del sistema del credito, quanto mai urgente, come abbiamo visto non soltanto nelle ultime ore, ma direi nell'ultimo anno, a partire dalla riforma delle popolari, sono capitoli di un processo di cambiamento del nostro paese che non è una invenzione di questo governo. È una priorità nell'agenda politica almeno gli ultimi 20 anni. Da Renzi arriva anche un'apertura all'istituzione di una commissione di inchiesta sollecitata dalle opposizioni. Ad intervenire è anche Banca Italia, che invita a vietare la vendita di prodotti finanziari a rischio e fa sapere di non avere nulla da temere dalla vicenda. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Di tutto questo torneremo a parlare più avanti, più diffusamente nel corso della trasmissione, nella seconda parte. Intanto, sempre sul fronte della politica economica, arrivano novità proprio dalla legge di stabilità. Giro di vite su lotterie e giochi online, gratta e vinci in generale, su giochi che consentano vincite in denaro. Gli spot pubblicitari saranno possibili solo di notte. Arriva infatti un emendamento alla legge di stabilità che impone uno stop alle reclame dalle 22 alle 7 sulle reti generaliste, esclusi da questo divieto i media specializzati, che dovranno essere individuati con decreto del Ministero dell'Economia, e le lotterie nazionali a estrazione differita. Arriva poi una stretta su come deve essere girata la pubblicità. Vietata quella che incoraggi il gioco eccessivo o incontrollato, che neghi che il gioco possa comportare rischi, che induca a ritenere che la bravura possa determinare l'esito. Le multe per chi non rispetta i divieti vanno da 100.000 a 500.000 euro, ma non finisce qui. Sui giochi crescono anche le tasse, mentre calano i premi. Un altro emendamento prevede infatti di innalzare il prelievo erariale unico sulle new slot al 17,5%. Viene invece ridotto il payout, cioè la percentuale degli incassi usata per i premi, da 74 al 70% della raccolta. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E ci sono sempre in tema di economia i dati sulla produzione industriale. In ottobre l'Istat rileva aumenti dello 0,5% rispetto a settembre, del 2,9% rispetto ad ottobre 2014. Lo scorso mese gli incrementi erano stati rispettivamente dello 0,2% e dell'1,8%. Sono in crescita tutti i raggruppamenti principali di industrie tranne l'energia, un meno 0,7%, un dato probabilmente dovuto anche all'andamento del prezzo del petrolio. Da segnalare a proposito di questo che oggi il Brent, quello del Mare del Nord, quotato a Londra, è sceso sotto i $40 al barile, a 39,73, mentre è ormai sotto i 37 il WTI, quello quotato a New York. E sempre su questo fronte ci sono i dati sui prezzi dei carburanti. Questa mattina quasi tutti i marchi principali hanno risposto al taglio deciso ieri da Eni su benzina e diesel, hanno fatto calare tra un centesimo e due centesimi e mezzo complessivamente. A proposito di energia e di ambiente, oggi è l'ultimo giorno per le trattative sul clima a Parigi. Si aspettava un accordo oggi che non è arrivato però. La nostra inviata Laura Bettini. Laura, buongiorno. Buongiorno, sì, l'accordo è stato rinviato, come diciamo appunto da stamattina nei giornali radio, da quando l'ha annunciato il ministro degli esteri francese Fabius, che è anche il presidente di COP21. L'accordo è stato rinviato a domani, presumibilmente in mattinata la bozza, e a mezza giornata l'accordo pubblico, insomma la firma, diciamo così. C'è stata poco fa una affollatissima conferenza di scienziati del clima, piuttosto irritati per il testo che è rimasto in discussione, primo perché in un certo senso questa bozza mette in discussione l'obiettivo, che è arrivare a un riscaldamento massimo del pianeta di 1,5 gradi, perché si dice che si deve stare al di sotto dei 2, però è un po' vago come definizione, e poi perché non si chiarisce il fatto nella bozza che si raggiunge l'obiettivo soltanto smettendo di emettere CO2, invece non c'è nessuna data fissata per un picco di emissioni massimo che doveva essere fissato, salta il termine per arrivare a emissioni zero, mentre si parla di neutralità di emissioni, che apre a tecnologie di cattura del carbonio, comunque sistemi di compensazione, ma quindi non un blocco delle emissioni. Cosa c'è d'altro in questa bozza? Un accordo su impegni volontari dei paesi con revisioni ogni 5 anni, e questo anche secondo gli scienziati un bene, anche se forse è un termine un po' troppo largo, dice bisognerebbe fare revisioni ancora più frequenti. E poi c'è che in India hanno ottenuto responsabilità differenziate per le emissioni passate, e quindi anche se ora sono il primo e il terzo emettitore mondiale di gas serra, non avranno le stesse responsabilità che si caricano gli altri paesi già sviluppati. Ti ringrazio, grazie alla nostra Laura Bettini, inviata a Parigi, per questo aggiornamento su COP21. Di questo andremo a parlare più avanti con il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, anche lui a Parigi, e gli chiederemo se veramente quello che si sta profilando sul clima è un accordo a ribasso. Restiamo in Francia, ma per parlare di elezioni. Domenica i ballottaggi, il premier Valls alza i toni, se vince la Le Pen si rischia la guerra civile. Intanto si fanno i conti su quali sono le regioni sicure per ciascun partito. Sentiamo. Una regione al centro-destra di Nicolas Sarkozy, 4 al Partito Socialista di François Hollande, nelle altre 7 sarà battaglia all'ultimo voto. Sono queste le indicazioni che arrivano dai sondaggi alla vigilia dei ballottaggi delle elezioni regionali francesi, che hanno visto al primo turno un Front National trionfante, primo partito del paese, e in testa in 6 regioni su 12. Grazie al ritiro delle liste socialiste, il centrodestra dovrebbe farcela nel nord, dove è candidata Marine Le Pen, mentre rimane grande incertezza in 3 regioni, Provenza Costa Azzurra, Alsazia Lorena e Borgogna, dove centrodestra ed estrema destra sono sostanzialmente alla pari. Scontro più tradizionale, infine, tra centrodestra e sinistra in 4 regioni. Sarà insomma suspense fino alla fine, fino alla sera di domenica, con i francesi incollati a radio e televisioni. Se il Front National dovesse riuscire a vincere anche solo in una regione, sarebbe un enorme successo per Marine Le Pen, lanciata verso le presidenziali del 2017, e una prima in Europa, dove l'estrema destra non ha mai guidato nulla da sola. Il premier Manuel Valls ha chiuso la campagna cercando di drammatizzare l'appuntamento elettorale. Il Front National, ha detto, è portatore di un progetto di divisione che può portare il paese alla guerra civile. Marco Mussanet, Radio 24 e Sole 24 Ore, Parigi. Una Francia che è andata al voto ancora e che andrà al voto ancora scioccata evidentemente dagli attentati del 13 novembre scorso. Proseguono intanto a Ginevra le ricerche di uomini che sarebbero anche collegati proprio agli attentati di Parigi. Ci colleghiamo dunque con la Svizzera e con Lino Terlizzi per avere un punto su questo fronte. Lino, buongiorno. Non abbiamo Lino Terlizzi, evidentemente abbiamo qualche problema di collegamento. Intanto vi do un'altra notizia che riguarda il terrorismo e degli altri arresti, perché l'antiterrorismo turco avrebbe individuato la mente degli attacchi dell'ISIS compiuti negli ultimi mesi nel paese, tra cui le stragi di Ankara e Suruk. Lo riportano media locali, secondo cui si tratterebbe di Ilhami Bali, un turco di 33 anni che è noto come il doganiere dell'ISIS. Torneremo a parlare di terrorismo tra poco, appunto cercando di collegarci con Lino Terlizzi. Anzi, mi dicono adesso in questo momento che dovremmo averlo in diretta. Lino Terlizzi, buongiorno, eccoci. Sì, buongiorno. Eccoci, abbiamo avuto qualche problema di collegamento evidentemente. Dunque, a Ginevra proseguono le ricerche di questi uomini che sarebbero collegati tra l'altro alle stragi di Parigi. Sì, questa diciamo è l'idea di fondo. Da ieri appunto è stato alzato il grado di allerta a Ginevra. Prosegue questo tipo di allerta. Le indiscrezioni parlano di 4-6 uomini presumibilmente legati all'ISIS, quindi ci sarebbe questo collegamento appunto anche con gli attentati in Francia. Questa mattina il responsabile della sicurezza del Canton Ginevra ha cercato un parte di sdrammatizzare, dicendo che la situazione qui a Ginevra non è paragonabile a quella di Bruxelles, però di fatto l'allerta appunto prosegue, e questa è già una notizia. Bisogna ricordare che Ginevra ovviamente città svizzera, ma Ginevra anche sede di parecchie istituzioni internazionali, e quindi ci sono stati anche dei cambiamenti per quel che riguarda l'agenda di alcune riunioni internazionali che si dovevano tenere per esempio al Palazzo delle Nazioni, quindi in sede ONU. Ci sono stati anche degli episodi collaterali, per esempio ci sono stati allarmi per delle borse, delle sacche, una rinvenuta in una stazione di Renon nel Canton Vaud, che è molto vicino a Ginevra, e l'altra proprio a Ginevra, una sacca da sport che ha destato sospetti. Non è stato trovato esplosivo, però questo è sintomatico del clima di allarme che c'è. Grazie a Lino Terlizzi per questo aggiornamento dalla Svizzera, e appena avremo notizie anche su questa ricerca, su questa caccia all'uomo, ve le daremo. Parliamo dell'importante operazione antimafia di oggi a Palermo, con documentazione inedita, per certi versi, della fase di elezione di un boss. Avevano riorganizzato la cosca di Santa Maria del Gesù, un mandamento pesantissimo nella geografia del potere di Cosa Nostra, quello in cui comandava Stefano Bontate, il principe di Villagrazia, ucciso nel 1981 dai corleonesi, ripristinando le antiche regole mafiose con tanto di elezioni del capo famiglia, in questo caso definito il principale, ovvero il capo azienda, per alzata di mano con la benedizione di vecchi boss come Salvatore Profeta, consigliere della cosca uscito dal carcere grazie alla revisione del processo sulla strage di Via D'Amelio e arrestato qualche settimana fa. I carabinieri del ROS di Palermo sono riusciti a documentare con le intercettazioni il nuovo organigramma della famiglia mafiosa di Santa Maria del Gesù, al vertice della quale, secondo l'accusa, vi era Giuseppe Greco, fratello di quel Carlo Greco già al vertice del mandamento insieme a Pietro Aglieri. E Greco, protagonista dell'antico rito del bacio sulla fronte con Profeta, è finito in manette insieme ad altri 5 esponenti della cosca nell'ambito dell'operazione Torre dei Diavoli. I carabinieri hanno eseguito un provvedimento di fermo ordinato dalla procura guidata da Francesco Lovoi. Le intercettazioni hanno consentito di verificare in diretta un omicidio ed emerge lo spaccato di una mafia che torna all'antico, con ricordi e rimpianti di quando la famiglia mafiosa aveva 120 uomini d'onore, mentre ora sono una trentina e vogliono continuare a contare. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. Restiamo sulla cronaca per un nuovo caso di corruzione. 8 arresti avvenuti per appalti nelle basi dell'aeronautica e un metodo di fuga, per così dire, particolare. Un sodalizio criminale promosso dall'imprenditore Giovanni Sabetti e formato anche da militari, dipendenti infedeli del Ministero della Difesa e da imprenditori. Un sodalizio che ha permesso l'assegnazione in modo illecito di appalti all'interno di strutture militari. Almeno 9 le gare truccate per un valore di 9 milioni di euro, riguardanti tutte opere di manutenzione di edifici adibiti a diversi usi ed ubicati presso diverse installazioni dell'aeronautica militare. Ad alterare le gare sarebbe stato un dipendente della difesa. Decine di volte sarebbe penetrato nell'ufficio del secondo reparto genio dell'aeronautica militare, dove le buste erano chiuse in cassaforte, e ne avrebbe manipolato il contenuto. per uscire dalla base di Ciampino senza dare nell'occhio, avrebbe poi coinvolto un capitano che l'avrebbe nascosto nel bagagliaio dell'auto. 8 le persone arrestate, 4 ai domiciliari, numerosi gli indagati e numerose le perquisizioni in diverse città. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E parliamo in chiusura di questa prima parte di musica e televisione. Giosada, il vincitore della 9ª edizione di X Factor Italia. Il verdetto è arrivato al termine di una serata durante la quale Enrica, lo stesso Giosada, Davide e gli Urban Strangers si sono scontrati a suon di note nel corso di 3 manche nel programma di Sky. La prima dedicata ai duetti con Cesare Cremonini e con 4 i suoi successi. La seconda con i brani inediti, quello di Giosada lo sentiamo in sottofondo. La terza dedicata ai successi internazionali. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade. Nella seconda parte della trasmissione torneremo a parlare di banche, lo faremo con Marco Ferrando, collega del Sole 24 Ore che di queste vicende si occupa spesso. Parleremo col ministro dell'ambiente Gianluca Galletti su questa COP21 che sembra che non si stia concludendo proprio bene, questa conferenza sul clima di Parigi. Traffico. Stufe, caldaie termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Effetto Giorno. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi. I nostri titoli: sulle banche, per Renzi ci vuole una riforma di tutto il sistema mentre si preparano misure per gli obbligazionisti delle quattro salvate. Sulla legge di stabilità, l'esecutivo presenta le modifiche sui giochi, stop alla pubblicità dalle 7 alle 22 e tassazione più alta sulle news slot. Parigi si prepara al ballottaggio di domenica, il premier francese Valls alza i toni: se vince Le Pen, rischio di guerra civile. Tangenti per appalti nelle basi dell'aeronautica militare, in manette anche un dipendente della difesa truccava le gare e poi usciva dall'aeroporto nel bagagliaio di un'auto. Di questo parleremo più avanti con la procura, col procuratore di Velletri che si è occupato della vicenda. Intanto saluto il ministro dell'ambiente Gianluca Galletti, buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno, ministro. Buongiorno. In diretta da Parigi, dove si trova per COP21, appunto il vertice internazionale sul clima. Ci sembra, da quello che ci ha riferito la nostra collega Laura Bettini nella prima parte della trasmissione, anche da quello che leggiamo nelle agenzie, ministro, è che si stia profilando un compromesso al ribasso. Che idea si sta facendo in queste ore lei? Io credo che invece si stia facendo, spero ancora che si possa fare un buon compromesso. Io do molta importanza, oltre agli impegni che i paesi prendono nel protocollo, a come il processo si gestirà nei prossimi anni. Cioè non bisogna credere che Parigi nasca a Parigi e muoia a Parigi. Da Parigi si incomincia un grande percorso che dura 85 anni. Perché gli impegni che prendiamo qui sono impegni, alcuni a breve, ma altri di lungo periodo. Allora è importante che a Parigi si stabiliscano alcune regole su come si va avanti nei prossimi anni. E io credo che su questo ci saranno dei passi in avanti che ci permetteranno anche nei prossimi anni di raggiungere obiettivi importanti. Ecco ministro, da quel che leggiamo, dalle indiscrezioni, anche proprio sulla roadmap, la bozza è probabilmente un po' poco energica, cioè un primo appuntamento nel 2023 con un accordo che entra in vigore nel 2020, revisioni entro ogni 5 anni, come dire, scarsi impegni al momento su base volontaria da parte dei paesi. Beh, la roadmap così è come l'Europa aveva chiesto, cioè se l'accordo entra in vigore nel 2020 e il primo rodaggio, la prima manutenzione si fa nel 2023, la data non è una data molto lunga, perché poi i monitoraggi si fanno su quello che i paesi hanno fatto e l'arco di 3 anni è un buon periodo. È un arco minimo certo. Per poter misurare i risultati ottenuti. Stiamo parlando del surriscaldamento del pianeta, non è che lo possiamo fare ogni 6 mesi o ogni anno. Il problema è se l'impegno a farsi controllare è volontario o obbligatorio. Questo è davvero importante, perché se l'impegno di rendicontare i propri risultati fosse solo volontario da parte di alcuni paesi, allora questo diventerebbe un problema, perché vuole dire che gli obblighi rimarrebbero a carico solo di alcuni e non di tutti. E quella è una soluzione che le sembra che si stia profilando? È ancora sul tavolo, è una di quelle ragioni per cui non si chiude l'accordo oggi, ma si chiuderà invece domani, che aspettare 24 ore per un accordo che deve durare 85 anni non è un grande problema. No, quello direi decisamente di no. Quindi mi sta dicendo in sostanza, Ministro, che al momento siamo veramente ancora in bilico, cioè il fatto che l'accordo non sia stato stretto oggi non è un caso, perché siamo veramente alle fasi finali della trattativa e potrebbe effettivamente uscire fuori un accordo al ribasso. Questa è una sicuramente delle opzioni in campo che noi tenteremo di evitare fino all'ultimo minuto, anche perché comunque noi come Italia, come europei, l'impegno vincolante l'abbiamo già preso, per cui per noi cambierebbe poco, cambierebbe molto per il globo, per il pianeta, perché come dicevo prima o questa cosa si fa tutti insieme oppure ha poco senso. Infine il tema della limitazione dell'innalzamento delle temperature del pianeta, sono circolate molte ipotesi, 1,5 gradi, 2 gradi, 3 gradi, su cosa si sta ragionando in queste ore? Qui si sta profilando su un'ipotesi finale che a me soddisfa abbastanza, cioè detto che l'impegno comunque resta quello preso a Cancun già parecchi anni fa, quindi di limitare la temperatura entro i 2 gradi, all'interno del protocollo ci sta un riferimento, che è quello che volevamo noi come Italia, a 1,5 gradi, cioè se nel corso di quelle verifiche che facciamo ogni 3 ogni 5 anni ci sarà la possibilità di aumentare l'ambizione, perché ci sono nuove tecnologie, perché abbiamo raggiunto risultati importanti, i paesi si impegnano già adesso a rimanere entro 1,5 gradi. Credo che questa sia una grande vittoria anche italiana proprio. Ed europea, naturalmente. Nel finale ci sarà questa, ed europea. Ed europea, evidentemente. Grazie al Ministro dell'Ambiente, Gianluca Galletti, per essere stato con noi. Saluto Marco Ferrando del Sole 24 Ore. Marco, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Per parlare con te delle vicende che riguardano le banche, tra l'altro continuano ad arrivarci molti messaggi anche su WhatsApp dai nostri ascoltatori esattamente su questo tema. Ti chiederei innanzitutto, da un punto di vista di pura cronaca, a che strumento, se sei riuscito a capirlo, starebbe pensando il governo per aiutare umanitariamente, per dirla con il ministro Padoan, gli obbligazionisti subordinati colpiti dal salvabanche? Ma sì, posto che l'ultima parola evidentemente spetta il ministro, che parlerà questa sera alla Camera intorno alle 20, quindi probabilmente se ne saprà di più questa sera. Al momento l'ipotesi sembra quella di un fondo di circa 100 milioni che dovrebbe essere destinato a ristorare chi più ha bisogno tra gli obbligazionisti che si sono visti cancellati appunto i titoli subordinati che avevano sottoscritto, con la possibilità di un arbitrato per decidere a chi spettano e a chi no, cioè in sostanza chi effettivamente era inadatto a essere destinatario di quel prodotto. Cioè qualcuno, un organismo che selezioni e dica: ok, questo è un povero pensionato al quale hanno affibbiato obbligazioni subordinate e non, il suo profilo di rischio non corrispondeva a quel tipo di prodotto, quest'altro invece è un investitore che ci ha voluto lucrare, per dirla molto brutalmente. Esattamente, perché il nodo è un po' questo, nel senso che evidentemente erano prodotti accompagnati da prospetti di centinaia di pagine, come tutti i prodotti finanziari che spesso ci vengono proposti in banca, e evidentemente c'è chi si è fidato, non ha letto o ha letto senza capire e ha acquistato, e magari peraltro investendo buona parte, addirittura integralmente, ci sono casi drammatici tra le migliaia di persone coinvolte, e investito integralmente in propri risparmi. C'è anche chi invece un po' più cinicamente ha visto che quei prodotti rendevano molto più di un BTP, di un'obbligazione di una banca, diciamo, sì, sicura, e l'ha fatto volontariamente, ed evidentemente sono situazioni diverse che vanno evidentemente trattate diversamente. L'altro fronte sul quale ti voglio coinvolgere brevemente, Marco, riguarda questo scontro tra l'Italia e Bruxelles. C'è da una parte Roma che dice: noi abbiamo proposto a Bruxelles delle soluzioni che tenessero conto anche delle esigenze di questi piccoli risparmiatori, diciamo così, e Bruxelles ce le ha rifiutate. Bruxelles dall'altra parte dice: non è assolutamente vero, è tutto in mano vostra. Hai l'impressione che, come sempre in questi casi, la verità stia nel mezzo? Sì, probabilmente sì. Diciamo che anzitutto è un po' triste assistere a questo dibattito che è più, diciamo, tecnocratico che non politico, perché alla fine, come dire, parliamo di interpretazioni diverse di norme che invece dicono una sola cosa. Sicuramente in questi mesi l'Italia ha provato, con i suoi vari soggetti interessati, quindi il Tesoro, Banca d'Italia, il sistema delle banche, a imbastire un piano che potesse evitare l'utilizzo delle obbligazioni subordinate. Se a torto o ragione, non lo sappiamo, sicuramente non sono in grado di dirlo io, la Commissione lo ha respinto. Alla fine si è dovuto optare per il piano che è nato in quella domenica di 3 settimane fa, in cui purtroppo sul piatto ci sono anche gli 800 milioni di obbligazioni. Certo è che questo dibattito sembra anzitutto ritardato, perché comunque ormai sì, il decreto c'è, è fatto, anche l'allarme, la fiducia è stata violata, e questo è probabilmente il danno più grave che si è fatto. E poi si parla comunque veramente di interpretazioni di norme molto tecniche, quindi è un po' surreale, secondo me. Grazie a Marco Ferrando del Sole 24 Ore anche per il suo commento. C'è una vicenda sulla quale vogliamo tornare, che incrocia politica e giustizia. La soluzione di Filippo Penati è quello di cui ci parla oggi il nostro Daniele Biacchessi nella sua analisi. È stata messa fine ad un'ingiustizia durata 4 anni e mezzo. Così Filippo Penati dopo la sentenza di assoluzione del Tribunale di Monza. Quando è iniziata l'inchiesta sul cosiddetto sistema Sesto, Penati era il portavoce dell'allora leader del PD, Pierluigi Bersani. Da funzionario aveva scalato tutti i gradini della carriera politica. Sindaco di Sesto San Giovanni, nei periodi della gestione di gigantesche ex aree industriali destinate in prevalenza al terziario. Poi il segretario provinciale del PDS-DS di Milano, presidente della provincia di Milano. Infine, a Roma, a fianco di Bersani. È stata messa la parola fine alla sua ascesa politica, alle sue legittime aspirazioni umane. Ora Penati può essere simpatico o antipatico, può essere inviso da molti e osannato da pochi, ma 4 anni e mezzo dopo l'apertura dell'indagine, i giudici del Tribunale di Monza hanno ipotizzato che il sistema Sesto è davvero esistito, ma che in dibattimento non è stata raggiunta la prova piena della colpevolezza, che, escluso i casi Falche e Marelli, riguarderebbe 3 episodi di corruzione, 2 di finanziamento illecito ai partiti, uno dei quali tramite Fare Metropoli, l'associazione culturale fondata da Filippo Penati. Non ci sono prove, dunque. Ma è giusto attendere un tempo così lungo per ottenere una verità, seppur parziale? Resta dunque il limite del giustizialismo italiano. Anche sulla scorta dell'andamento del prezzo del greggio vanno male i mercati oggi, ne parliamo tra un attimo come sempre, poi nella seconda parte della trasmissione andremo sulla cronaca, innanzitutto con questa operazione anticorruzione che ha portato anche all'arresto di un funzionario del Ministero della Difesa, e poi l'attesa per la sentenza sul delitto di Garlasco. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Le nostre notizie principali sulle banche: Renzi dice che ci vuole una riforma di tutto il sistema, mentre si preparano le misure per gli obbligazionisti delle 4 salvate. Parigi si prepara al ballottaggio di domenica, il premier francese Valls alza i toni: se vince la Le Pen c'è un rischio di guerra civile nel paese. La mafia ha smantellato un clan a Palermo, nelle intercettazioni e nei video l'elezione del capo con una votazione, il bacio in fronte al padrino in segno di rispetto. Legge di stabilità, il governo presenta le modifiche sui giochi, stop alla pubblicità dalle 7 alle 22. La borsa. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Questa seconda parte, questa terza parte della trasmissione la dedichiamo alla cronaca, iniziando da un nuovo caso di corruzione, ovviamente presunta, perché è un'inchiesta aperta, è quella che riguarda appalti in alcune basi dell'aeronautica. Ci sono stati 8 arresti, è coinvolto anche un funzionario del Ministero della Difesa che, a quanto pare, saluto Francesco Prete, procuratore di Velletri, che ci ha raggiunto. Buongiorno procuratore. buongiorno. Sì, questa è la nota di colore. Fuggiva dall'aeroporto di Ciampino con dentro un bagagliaio, a quanto pare, abbiamo capito. Sì, abbiamo seguito i movimenti di questo dipendente civile in particolare, il quale secondo gli atti si intrufolava di notte, si intrufolava nei fine settimana quando l'ufficio è chiuso, per manipolare, alterare le procedure finalizzate alle applicazioni degli appalti. E in particolare c'è questo episodio, sì, a cui lei ha accennato. A cui accennavamo, come si diceva, è colore. In realtà l'inchiesta è seria perché appunto tocca proprio basi dell'aeronautica. Che tipo di appalti erano, procuratore? Appalti soprattutto di manutenzione ordinaria e straordinaria di aeroporti, in particolare Centocelle, Pratica di Mare, un aeroporto nella Campania, e quindi abbiamo verificato che almeno 9 gare d'appalto sarebbero state alterate per un valore complessivo di circa 9 milioni di euro. 9 milioni di euro complessivamente. Una piccola nota a margine, procuratore, fa un po' impressione, da semplice cittadino, dico così, come farà impressione agli altri, che la corruzione possa annidarsi anche in un luogo come appunto il nostro esercito. Naturalmente devo dire qualcosa di assolutamente scontato. Qui l'aeronautica militare non è certamente coinvolta come istituzione, anzi è parte offesa del comportamento fraudolento e illecito di qualcuno, di qualche dipendente che ha violato i doveri etici connessi alla professione. Quindi certamente colpisce, ma non sarebbe assolutamente fuori luogo parlare di ambienti contaminati nel loro insieme. Stiamo parlando del comportamento illecito di qualcuno, l'istituzione è assolutamente salva nella sua compattezza etica, voglio dire. La ringrazio, grazie a Francesco Prete, procuratore di Velletri, le auguro una buona giornata. Abbiamo in studio la nostra Raffaella Calandra, come si diceva continuiamo ad occuparci di cronaca e parliamo del delitto di Garlasco, perché stasera, Raffaella, arriva la sentenza di Cassazione, quindi finalmente potremo mettere la parola fine su questa vicenda. Sì Simone, arriva la seconda sentenza di Cassazione in realtà, perché dopo 8 anni e 4 processi stavolta stasera dovrebbe essere la parola fine sul delitto di Garlasco, ossia l'omicidio di Chiara Poggi. Perché la seconda sentenza della Cassazione? Perché già una volta la Suprema Corte si è pronunciata nel momento in cui ha riaperto il processo, perché dopo 2 assoluzioni per quello che è stato sempre l'unico imputato di questo processo, ossia Alberto Stasi, l'ex fidanzato di Chiara Poggi, che era stato assolto in primo e in secondo grado, la Cassazione aveva poi riaperto tutto, aveva stabilito che quella sentenza di secondo grado non andava bene, che gli indizi dovevano essere riletti e approfonditi di nuovo, cioè, come si dice in gergo, aveva annullato con rinvio, per cui c'è stato un secondo processo di secondo grado d'appello, concluso stavolta con una condanna per Alberto Stasi, la prima condanna a 16 anni, e quindi oggi poi di nuovo la Cassazione è chiamata a pronunciarsi per mettere la parola fine, quindi in sostanza per stabilire se Alberto Stasi va condannato e in tal caso l'esecuzione della pena potrebbe essere immediata, cioè quindi potrebbe essere immediatamente portato in carcere, anche si ha già detto attraverso il suo avvocato che si sarebbe costituito, e poi altro fronte capire a quanto essere condannato, sia a 16 anni o addirittura di più, fino a 30 anni come vuole la procura nel caso in cui gli fosse riconosciuta l'aggravante della crudeltà, che non c'era nel secondo grado, oppure la Cassazione potrebbe invece annullare quella condanna a questo punto però diciamo senza ulteriore rinvio, e quindi scagionarlo e assolverlo definitivamente, oppure appunto terza ipotesi, ma viene considerata poco probabile, chiedere un ulteriore processo di secondo grado. Insomma, Raffaella, per dirla, abbiamo ancora 30 secondi, nel caso ci fosse un'assoluzione per Alberto Stasi, ci troveremmo senza un colpevole a quanti anni dal delitto? 8 anni dal delitto, 8 anni dopo. Chiara è stata uccisa il 13 agosto del 2007, se ci fosse l'assoluzione definitiva per Alberto Stasi non ci sarebbe un responsabile, diciamo, individuato per il delitto di Chiara Poggi, ed è per questo che appunto la mamma, soprattutto i genitori familiari di Chiara Poggi sperano, confidano in una giustizia che a questo punto, stando a come sono state le inchieste fatte fino adesso, c'è sempre stato soltanto il nome di Alberto Stasi, che però si è sempre dichiarato innocente e che per due gradi di giudizio è stato anche considerato innocente, stato appunto. Vedremo come andrà questa sera. Intanto ringrazio la nostra Raffaella Calandra, il traffico Mario Platero. Ci risentiamo alla fine per i saluti.